La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L'articolo 18 riguarda una classica libertà collettiva delle persone, quella di potersi associare. Abbiamo ricordato che l'articolo 17 affronta la riunione. La riunione è la semplice compresenza in un luogo che può essere sia a fini di gioco, ludici, o anche a fini politici, a fini di esplicare un'attività congiunta. Invece l'associazione è qualcosa di più. L'associazione è quando determinate persone si mettono insieme per creare un'organizzazione che abbia degli scopi, che possono essere scopi di interesse civile, di interesse sociale, di volontariato, di gioco. Cosa ci dice la Costituzione sull'associazione? Che c'è la piena libertà, il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione. Anche qui, se io voglio costituire un'associazione per lo studio della Costituzione, non devo informarne l'autorità, come era nei regimi precedenti, ma posso liberamente costituirla. Ovviamente l'associazione ha delle limitazioni. La prima è quella che riguarda i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. L'esempio è evidente, non posso fare un'associazione per organizzare furti, organizzare omicidi, e ovviamente quella sarebbe un'associazione per fini vietati al singolo furto, omicidio dalla legge penale. Anzi, nella legge penale diventa anche un aggravante l'associazione a delinquere. E poi il secondo comma, anche qui con reminiscenze storiche, ci ricorda che sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il timore era chiaramente un timore storico dei fatti del regime fascista. Tuttavia, nella nostra Repubblica, le associazioni segrete hanno trovato un'importante esplicazione. I fatti sono di qualche anno fa, degli anni Ottanta, ma molti ricorderanno la loggia massonica P2. Loggia massonica P2, la cui legittimità venne messa in dubbio anche perché segreta. Infatti l'iscrizione e la partecipazione era segreta. Ma pensate un po', per capire se quella era davvero un'associazione segreta, venne costituita una commissione di studi, vennero chiamati tre grandi giuristi, Sandulli, Crisafulli e Levisandro, per accertare se la loggia P2 avesse i caratteri della segretezza, perché ovviamente è difficile stabilire poi in concreto se un qualcosa è segreto. Solo a quel punto venne poi fatta la legge e venne sciolta l'associazione. Anche qui, questo aneddoto storico per ricordarci cosa? La piena garanzia dei diritti del singolo e della collettività. Garanzia perché il diritto di associazione è libero senza autorizzazione.